briciola. Beh, brigido. Brigido. Bomba, bomba. Mamma, sto a letto. Oh, Luca, lo senti anche tu quel rumore? Tra l'11 e il 12. No? Non lo so. Adesso ci passo. Allora, tra l'11 e il 12, non credo che nemmeno vi sia un canale alfa. È intermedio e si sente come una specie di cosa forte, una specie di se passi l'FM sparisce, sembra quasi un flusso d'atti, si sente un soffio in FM, in AM invece è rumorosissimo, non so se sia una cosa locale. Non lo sentivo, adesso provo con l'altra radio, aspetta. Sì, diciamo che è più sul 12 meno 5 kHz, 12 meno 5 kHz. Ogni tanto compare, e ogni tanto, non spesso però. Tu metti la squelcia, così lo elimini, come faccio io. Ah, c'è una tarea, anche tu sì. Sì, invece l'altra volta, sul 19, tipo 19 alfa dintorni, c'era un segnale, una cosa simile, che sembravano quasi dati trasmessi in FM o cosa del genere, ma il segnale era fortissimo. A un certo punto è arrivato talmente forte da surclassare il segnale che ha Carlo, che lui abita in via Lunesole, a un tiro di balla, era talmente forte da andare oltre i 9.30. E poi si abbassava, poi risaliva, i segnali sono comunicazioni particolari, dai. E ho capito, sarà stato quello, qualcuno che sta più su o più giù di noi e stava provando qualche programma magari. Magari dalla prefettura, che ne so, tanto in questi tempi ci saranno anche comunicazioni in tutte le frequenze. Se una volta mi farà ad un raio, ascoltando la Diamante ho sentito questa esercitazione in tutta Italia, compresa la prefettura, no, tutte le prefetture interconnesse. E io, ma fatta e mi credo che fossimo un passo dal conflitto mondiale. Saranno esercitazioni di protezione civile, fanno. Ma io ho provato anche con l'altra radio, ma non lo sento io questo disturbo, Marco. No, allora è locale, Luca, deve essere roba locale, qualche oscillatore locale, qua in zona, dai. Saranno tentando. E qualcosa a tentare, qua c'ho sempre solo l'omologato, al momento è il 3009, no? E ricevi Torino per non sentire niente in banda amatoriale. Ma tu stamattina con Giulio eri? Torra, no, ma perché Giulio cosa deve fare? Da quando ho visto la parrucca di Malgioglio. È vero, lì siamo andati a parare. No, io stamattina ho salutato, ma come ho salutato, ho detto sto uscendo, poi ho proprio chiuso e cioè, ho lasciato acceso, sono andato via proprio direttamente. Ero anche in ritardo. Sì, ma guarda, allora l'altra volta, non mi ricordo se era un mesetto fa, roba del genere, no? Su un canale, forse Rai, c'era Malgioglio tutto pitturato, tutto travestito, un altro metrosessuale tipo lui, tutto con le zeppone, tutto variopinto. Ho detto, bella la TV italiana, bella proprio. Boh, non lo so. Beh, ma anche la TV estera sarà così, ma. Sì, insomma c'era la parata, erano uno, due, forse anche tre. E ha detto andiamo bene, ma no, perché tira aria sempre, aria brutta di crisi, di guerra, di cose, e questi andando a fare i culattoni in televisione, non me ne vogliono i culattoni, ma questo esibire proprio è un esagerato, a me sembra, come con le manifestazioni dei Pride, no? E tu vuoi fare il culattone, fai il culattone, non c'è bisogno di ostentare. Quelli sono affetti da pederastia. Beh, spero che vadano con le persone adulte almeno, no? Sono tra coetanei, se no è quello più preoccupante. Con paone fanno. Con quelli più piccoli sono anche pedofili. Tutto, vedrai, allora, già con la bandiera e quella sigla LBGTQ+, ogni tanto aggiungono una lettera, un simbolo o un colore, e vedrai che ci finiranno anche loro lì. Sì, sì, il mondo si ribalta in davvero. E qualcuno ci ha anche tentato, guarda che c'era uno, aspetta dov'era, tipo un olandese, un tipo brutto con la barba, sembrava tipo, è presente il nemico del braccio di ferro, Timoteo, così si chiama, brutto, quello lì. E lui voleva fare un partito di quella roba lì, e liberalizzare anche quella roba lì. E c'era tutti, ma lasciamo perdere, dai. Emilio, sorvoliamo. No, Nico, era in mezzo a tutti questi ragazzetti filippini, vietnamiti, di dove erano. Vabbè, non voglio fare discorsi razziali, sennò qua veramente mi vengono a castigare. Sono i dolori, mi stanno venendo. Ah, Natalia, aspetta, no, a me ne sta venendo uno adesso di dolore al rene. Questo è sentore di calcoli in arrivo, mamma mia, siccome ci sono già passato e non era bello. Se lo dico, dovevi fare un intervento, Natalia, quando è che lo dovevi fare? Si è sentato. Marco, ma non hai mai pensato di fare domanda di invalidità? Tutti così vai. No, e cosa c'ho? Non è che normali acciacchi, allora qua dovremmo essere tutti invalidi, ai 27, che ogni tanto ci passiamo, ci raccontiamo i malanni, che sembrano lebrosario sembra. No, perché l'altra volta ti ho sentito che hai passato un periodo psicologico, prendendo psicofarmaci addirittura. No, ma quella era la fifa di una visita un po' invasiva, perciò mi sono preso una cosa perché avevo fifa, capito? Dovevano entrare da davanti, capito? E poi quando entrano non sai se tagliano, se non tagliano, boh! Il clissare secondo me è una cosa brutta, vedi? Non il clissare, bah! Quando ti mettono il catetere, non il clissare. Via, mamma mia, quella deve essere una cosa bruttissima. Io l'ho visto una volta quando ero ricoverato a questo signore anziano. Cognate che rio. Ma poi non è nemmeno catetere, è più grande. Perché? Aspetta, mi sta chiamando mamma mia, ogni anno viene. Aspetta. Oh, ma sono via a letto. Te lo dicendi, no? Su catetere. Allora, dite che Tom l'avevano legato, gli avevano dato le sponde del letto, legato tutte e due le braccia alle sponde perché se ne lo voleva stracciare. Sì, anche perché quando il catetere è dentro, alla fine c'è un piccolo palloncino che viene riempito d'acqua proprio per non fuoriuscire. Se quello tira, rischi di stracciare tutto l'uretra. Non mi sto sentendo già male. Lo dicevo che quella cosa che ha fatto anche Natalino, l'uroscopia, cioè lì non è questione di catetere, lì la cannula guida è anche più grossa perché ci deve entrare il tubicino della telecamera e poi tubicini vari delle pinzette o quello che è, capito? Insomma, non è una bella cosa. Un bello casino. E quindi allora abbiamo deciso, ci facciamo tutti come Malgioglio, come quelle con platinette, sì. Ah sì, perché alla fine non abbiamo più problemi di nulla, neanche delle operazioni davanti, dietro, anzi camminiamo anche meglio. Questo glielo dicevo Antonio ha detto, Antonio Bombo lo diceva, tanto inevitabile, visto come sta andando la società, un giorno ha detto saremo tutti come Malgioglio, come platinette. E lui, ma non ti na! Tutti a Casablanca andiamo. Zambò. Oh, iaia. E Natalino? Dove è andato? O Cess? Non so. Si è assentato. Oh, Luca, se mi hai mandato un video, non so nemmeno se l'ho guardato o se lo devo guardare. E certe volte, mamma mia, se dovessi guardare i messaggi che arrivano, eccetera. saprei, dopo lo guardo. Saranno radio minimo. O è radio è roba da mangiare, me. No. Ah vabbè, guarda troppo. No, ma è corto, è una cosettina. Ma per caso riguardava le etichette in 3D, i nominativi in 3D? Nominativi in 3D? No, io quelli li ho già mandati. Li ho già mandati quelli. Oh, che poi se me lo chiedi, se uno dice appassionato all'ascolto, non so nemmeno chi siano quei nominativi, lo sai. Ne ho visto uno e ho detto chi è? Boh. Ah, quei due che ti ho mandato. Ce n'era uno sulla destra e uno sulla sinistra, no? Bianchi. Chi sono questi? Boh. Sì, sono. Allora, sono due radioamatori che mi hanno. Al quale a uno dei due ho. Aspetta un attimino, che abbasso qua il volume. Al quale avevo venduto il 757. Però prima mi aveva contattato l'amico e mi erano rimasti i due nominativi, no? Poi quando ho spedito la radio, prima di spedire la radio gli ho stampato i nominativi, in quanto abitano tutti e due vicini di casa, capito? E allora ho voluto fargli un pensierino. E quando ho spedito gli ho messo nel pacco, gli ho messo i nominativi. Ah, ma magari non è gente di Sassari, vorresti, cioè non è gente di Sassari, per quello non le ho. Non ho visto nemmeno se era un ESG, aspetta. C'è un messaggio tuo da 12 minuti, aspetta che lo guardo. Io il telefono intanto lo butto in qualche camera e poi me ne ricordo a fine serata. No, Sassari, no, non mi tocca Sassari, no, una cosa. Per carità. Tutto fuori, o tramite eBay o Facebook, tutto fuori, però preferisco dare. Uff, è vero, non ci avevo badato, vedi? Praticamente il Z7 e l'altro è il K7, ecco, quindi non è roba IS-T. Non è roba IS-0. Ma no, se devo dare qualcosa qua sono due persone al massimo che do la roba qua, capito? Super fidati. Ma 5 messaggi non letti. E da quando ci sono? Questo vedo una bobina bianca di plastica, quello che è, insomma, da nylon. Boh. Poi c'è un Kenwood. Aspetta, me lo guardo. Poi c'è il carico fittizio. Perché le banane femmine davanti non va tramite PL o è altro quello che c'è davanti? No, le bananine le ho lasciate, era un alimentatore mi sa da 2 ampere forse quello. E così che avevo appunto il carico fittizio che avevo fatto qualche anno fa, col dissipatore, ci avevo messo dentro quella custodia, poi ho stampato la ventola, il copriventola, non so se l'hai visto, sopra. Quelle due bananine sono per accendere la ventola, capito? Ma dietro li devo mettere il jack a 12 volt anche, così uno lo può alimentare da davanti la ventola e poi l'accende tramite, perché è meglio sempre accenderla in base a quanto si prova il carico, capito? Ehi, ehi, capito. E poi, aspetta, Monster Gemini, lascia vedere. Ah, quelli sono, uno, quello di sinistra è arrivato oggi, l'altro ce l'ho già da un po'. Se un po' sono uguali, dai, uno c'è la sinistra, attacco davanti e un altro c'è la sopra, e quello di destra dove poi gli avevo scritto, ho fatto la scritta che vedi, c'è lì dietro le colonnine, cioè tutti e due ce l'hanno dietro, ma quello di destra ce ne ha due piccoli, cioè due, una è sempre, però le cose sono due, capito? Vedo. Bella la marca Malaitu. Originali sono, proprio l'originale, non clone. I cloni neanche la metà delle funzioni hanno degli originali, che l'ho avuto un clone. Ah, quindi i cloni non sono in realtà cloni, hanno le funzioni dimezzate, anzi mille decimate, da. Esattamente. Infatti quel cane mi dai. No, questi sono tutti e due originali, come ben leggi anche dalla cosa e dagli imballi, che originali, tra l'altro. questi fanno entrambi fino a 1200, da 0 a 1200. Quanto sono rimasto indietro, mamma mia, sto scendendo sempre roba nuova, ricevitori nuovi. Io non sto più accendendo nemmeno quello, però la radiolina, sto caricando la batteria, quando me la ricordo, e basta. No, ma... tu dici il Texun? No, poi avevo venduto il 6,60, poi quando ho visto questi, caspita, ho visto dei video, un audio incredibile, bellissimo, e allora ho deciso di usare questi, capito? Sono portatili anche questi, hanno la sua antennina telescopica, ma è tutto un altro mondo. A parte che hanno anche tutto, da 0 a 1200 MHz. Capito. Sì, non è il Texun, è quello di Amazon, XH Data. Così c'è scritto XH Data, modello tale Italia. E io c'avevo il D808, il D808 l'ho venduto nuovissimo anche quello, con il suo imballo, poi ho preso il 6,60, sempre Texum, della Texum PL660. Sì, quello è il primo che ho avuto, alla fine siamo lì come eccezione. Come funzioni, poi dico le funzioni ne uso un centesimo. Io accendo VFO, sintonia grossa, sintonia fine, con la rotellina e basta. Al limite i tasti dei numeri per impostare la frequenza, quando voglio cambiare banda, tutto lì. No, questi sono belli, a parte sono touch, questi anche. Questi sono touch, come vedi nella cascata lì, quando vedi un segnale, ti vuoi spostare, basta tocchi lo schermo e va da solo, non devi cagire niente, handy, come nei Texun, capito? Sono digitali proprio questi. Sì, quello è comodo, come vedi un segnale, lo clicchi e va lì direttamente. Non che devi fare scansioni con sta rotella, prima o poi si spana. Ah, io Natalino è rientrato, sì. Natalino ci fa prezioso. E adesso entrerà Mastro Pialletto. Un attimo, mi assento, un attimo Marco. Eia.